Benvenuti ai podcast di Rivista Militare. L'articolo di oggi è tratto dal numero 3 del 2021. Oggi parliamo di un'antica espressione. Perché si dice per il rotto della cuffia? Questa antica espressione sta ancora oggi a designare l'azione di chi esce miracolosamente da una situazione difficile. Si richiama all'antico gioco della quintana, la giostra di origine medievale nella quale i cavalieri, armati di lancia, correvano contro una sagoma girevole, a volte vestita da saraceno, e lì quindi chiamata giostra del saraceno, armata di scudo da un'estremità e da un lungo braccio dall'altra, senza farsi disarcionare. In questo torneo cavalleresco era ritenuta valida anche la prova di quel concorrente che veniva colpito, perdendo l'elmo, solo sulla cuffia, copricapo di cuoio indossato sotto la celata, senza però cadere da cavallo. Ancora oggi, in molte parti d'Italia ed Europa, vengono rievocati i giochi medievali come la giostra della quintana, rendendo il termine salvarsi per il rotto della cuffia, non solo metaforico, ma in questi casi pratico. Attualmente, tra i tornei cavallereschi più celebri e partecipati al mondo ci sono la Quintana di Ascoli Piceno, risalente al IX secolo d.C., con oltre 1500 partecipanti fra cavalieri, musici, sbandieratori, artigiani e figuranti, e il torneo di Kaltenberg in Baviera, Germania, con una capienza di oltre 10.000 spettatori e 1.200 partecipanti fra musicisti, ballerini, artisti, artigiani, gruppi storici. La lunghissima tradizione di queste manifestazioni e il grande interesse che suscitano nel pubblico hanno portato queste, nel tempo, ad assumere caratteristiche di sempre maggior realismo, spettacolarità e suggestione.